Salve a tutti, io sono Kenny Alexander Lawrence, in questo caso curatore e anche artista che espone alla mostra Tu mi chiami a compiere un atto d'amore, una mostra promossa da Associazione Alchemilla, che appunto ha sede dentro Palazzo Vizzani. È una mostra che si pone come manifesto, parte tutto quanto dall'enunciato che è il titolo, quindi Tu mi chiami a compiere un atto d'amore, con l'intenzione di attivare un rapporto partecipativo di relativizzazione tra gli artisti, tra le opere e il pubblico. Per noi artisti che abbiamo appunto costruito questa mostra, è veramente centrale questa idea di trovare delle alternative a quella che è la condizione contemporanea che si porta dietro ancora i fardelli meccanicisti della modernità. E quindi per andare avanti ci chiediamo quali sono le possibilità e le alternative per poter vivere e per potersi relazionare ai sistemi del mondo che lo sorreggono e che lo costituiscono in una maniera più organica, in una maniera che non sia riduttiva rispetto alla complessità dell'individuo, della soggettività. E quindi con questa mostra un'esperienza visuale, una tessitura proprio visuale, di codici visuali, e attraverso una serie di atti performativi che avverranno alla opening anche nel parlato, nella voce, nel sonoro e nel corpo, nella performatività corporea, vogliamo appunto scrivere codici nuovi per istituire alternative soggettivanti. Mi piace come parola, e la parola soggettivante mi piace molto. Come è nata? Come vi siete conosciuti? Noi siamo un gruppo di artisti che si sono conosciuti tutti quanti alla NABA di Milano, abbiamo tutti quanti studiato lì. Quindi insomma veniamo tutti quanti anche da città differenti, chi da Bologna, chi da Pordenone, chi da Milano, Varese o Savona. Abbiamo sviluppato un rapporto di amicizia stretto alla NABA, e che si è poi realmente consolidato con questo progetto di mostra che ci ha veramente visti anche un po', come dicevo prima, questa idea di relativizzazione e di empatia. Il nostro rapporto nello sviluppo di questa mostra si è posto anche un po' come caso studio su cui poi costruire il progetto. Ed è stato un processo incredibile, molto interessante. Appunto, gli artisti sono Nicola Bianco, Riccardo De Biasi, Camilla Desiati, Rebecca Momoli, Marco Resta ed io. Praticamente nello spazio è stato distribuito che ognuno di noi ha una sala precisa, nella quale appunto abbiamo avuto l'opportunità, attraverso Alchemilla e il supporto di Banca di Bologna e del studio legale Zunarelli, di realmente concretizzare una serie di immagini che avevamo dentro di noi ormai da più di un anno e mezzo di progettazione di questa mostra. E quindi sì, un'esperienza della quale siamo veramente veramente molto grati, e che è stata decisamente edificante e decisiva per noi come artisti. Grazie mille. Grazie a te.